Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Ethno Chic qui a Radio Città del Capo. Eh già, sono le 22:32 minuti primi. Ciao Babe. Ciao Vladimiro, martedì 30 maggio 2018. E stasera lo studio è un bel po' affollato, un po' come sempre ultimamente. Solo che stavolta siamo un pochino più larghi, vero? Siamo qui allo studio alla diretta e quindi insomma. Buonasera a tutti i nostri ospiti che ci sentono dall'altra sala. Ci sentite? Sì, non ci saremmo stati tutti quanti nello studio di registrazione, direi. Assolutamente, assolutamente no. E stasera abbiamo qui il piacere di avere tra i vari ospiti Nasser Valo, che è musicista curdo siriano, che è appunto un suonatore di sas, e poi abbiamo altri musicisti che sono suonatori d'arabuca, che chiedo di presentarsi. Adel, tunisino. E poi abbiamo Camilla Serpieri al DAF. Ciao. Ciao. E poi abbiamo Valentina Kazantzidis. Kazantzidis. È vero. Dall'Italia, dalla Grecia, insomma. E poi qui abbiamo Luca, il nostro traduttore, che proverà a tradurre. Ciao. Che sarà il nostro traduttore ufficiale. E poi abbiamo di nuovo Claudia Carini del progetto Soundry. Ciao. Bene, io direi partiamo subito con un brano che voi andrete ad introdurre, spero, per noi per i nostri ascoltatori soprattutto. You can start with a tune, some kind of tune. Iniziamo con una ninna nanna intitolata Lori Lori, e che parla dell'esodo del popolo curdo, quindi è sicuramente triste e toccante. Thank you. quindi abbiamo un po' introdotto, come piace fare noi, insomma, siamo introdotti già in quello che è il tipo di musica che faremo ascoltare questa sera, insomma, che in qualche modo anche nell'ensemble che stasera suona rappresenta un po' anche tutti, come dire, gli apporti che queste musiche hanno avuto, insomma, un po' da tutte le parti del Mediterraneo fino a praticamente all'Oceano Indiano, forse anche oltre, insomma. E infatti lo strumento che suona Nassir e poi il sasso è uno strumento, insomma, che ha fatto molta strada, insomma, è arrivato anche fino ai nostri Balcani e fino poi anche poi dai Balcani alla Cina lo possiamo trovare strumenti di questa famiglia. E Nassir, ci puoi raccontare come ha iniziato, insomma, come è iniziato? Tu sei molto giovane, ma hai iniziato a suonare molto presto. Marhaban, ya Nassir. Marhaban. Vladimiro, yuridu an yassalaka. Fia yumr anta badata yazif ala saz wa kaifa. Ana masa al-khair. Ana badatu al-asfa fil umr al-sabi'a. كان عمري 7 سنوات بدأت في العزف مع أخي يعزف البوسقة الساز. كنت صغيرا أنا لا كنت أقدر أن أحمل هذه الآلة الكبيرة، كنت أثبتها على الأرض وألعب فيها. Nassir dice che ha iniziato a 7 anni. Suo fratello già lo suonava e quando aveva 7 anni per lui era molto grande lo strumento. Adesso io non me lo immagino. E quindi poi questo strumento ha iniziato a suonarlo, ed è suo fratello che gli ha insegnato o qualcun altro? Man Allama Tarikat Yazif ala al Saz. أنا تعلمته من أخي كان يعزف على آلة الساز وأنا رأيته أنه يعزف هذه الآلة أحببته وأردت أن أتعلمها. Sì, è stato suo fratello. Poi con il tempo ha preso ispirazione anche da altri musicisti sempre della sua regione, che lui di quale regione è esattamente? Della Siria, la parte mi pare al confine con la Turchia, giusto? Mintaka anta tati mintakat minai mintakat Suria. Ana min Suria Halab. Ma minai muqata'at Tal Aran qariba ala Afrin. Ok. Della regione di Afrin. Sì. No. Quindi proprio al confine con la Turchia. Fi Karib min al Karib min hudud ma Turchia. بالطبع نعم هي قريبة على حدود تركيا. Sì. E quindi lui ha imparato, dicevamo, appunto da musicisti solo della sua cosa, oppure magari ascoltando, non so, musicisti della radio. Anta samata aidan musikin min radio am fakat fi mintakatika. Ana عندما بدأت على العزف هذه الآلة آلة الساز هي آلة فلكلورية في كل الأغاني والمناسبات الكردية تعزف هذه الآلة. Toujat fi kulli bayt fi kulli makan toujat hazi al-ala. E dice che in ogni posto, in ogni casa c'erano musicisti. Nel fi kull bayt. Naam, fi kulli bayt toujat bi saz. Naam. Ah, si suonava in ogni casa, sì. E che tipi di musica si suonano dalle sue parti? Cioè il sas viene suonato per quali tipi di musica? Sono musiche che vengono suonate per i matrimoni o piuttosto per ballare, oppure sono come raccontare delle storie, insomma, o come il nostro cantante, cioè come sono delle canzoni d'ascolto, oppure sono Fi ai Fursa, fi Kurdi, fi Kurdi, Kurdistan wa au fi Suria au fi Turchia, al musikin Yazi Funa al Saz, khilal al Hafla, khilal al Ihtifal, khilal al Mehrajan au Lamma. طبعا نحن يوجد عند الأكراد مناسبة عيد نوروز تحتفل sì. نوروز dice durante i matrimoni sì. نحتفل بها ونعزف في هذه الآلة كثيرا عند في المناسبات الأفراح نعزف بها أيضا أيضا أيضا عندما يوجد رقص عند نعم بالطبع هذه الآلة لها طابع خاص في الفلكلور الكردي مع الرقص الفلكلوري. Sì, ho chiesto anche se durante i balli folcloristici, diciamo, si utilizza il saz, e ha detto di sì, soprattutto. Poi hai parlato di matrimoni, come dicevi tu. Nasser, the next tune we play. Yes, okay. You can introduce what kind of melody. Valentina, cosa andrete a suonare? La canzone Mite Dippu è una canzone romantica e parla di un amore, di un amore immaginario in realtà. È dedicata all'amata, che è vista come una rosa rossa. Cioè io ti vedo come una rosa rossa e io sono l'uccellino dalle ali celesti che vuole arrivare da te. Mi fa impazzire. Thank you. Bene. E questa melodia così allegra sembrava poi un brano che si poteva trovare in qualche matrimonio dalle parti del Kurdistan, insomma. Ti volevo chiedere, appunto, Nasser, insomma, come sono questi matrimoni dalle tue parti? Cioè, ci sono molti musicisti che suonano uno dopo l'altro, le persone ballano, i balli come sono? Sono dei balli in cerchio? Ja, Nasir, fi frin, indama jujad zawaj, al ugniat, hum hia mitla hadi, au am jujad ugniat muhtalifa, wa sual tania. Yujad yujad jau far farah farah khilal al zawaj bi hadi al musika. أكيد طبعا نعم بالنسبة للمناسبات في عفرين هي هذه الأغاني أغاني سماعية أغاني حب وغرام يوجد أيضا أغاني أخرى نحتفل فيها كأغاني الرقص وأغاني الرقص وأيضا يوجد مثل هذه الأغاني تدخل في الأغاني الرقص الفلكلوري. Nasir dice che ci sono moltissimi cantanti e moltissimi danzatori. Wa yujad ukarir yujad jau جاو فارح بالطبع نعم سي دي ho chiesto di nuovo se c'è un'atmosfera allegra come in questa canzone. Volevo chiederti anche se i balli sono quelli anni fa. Mi ricordo che alle manifestazioni per il Kurdistan a Milano c'erano i curdi che ballavano questi balli in cerchio e c'era un suonatore di tamburo e ballavano per molto tempo, insomma. Volevo capire se i balli che possiamo vedere ai matrimoni sono di questo tipo, quindi in cerco. Vladimiro Kala Hilal al Muzaharat fi Italia li Kurdistan Kana Yujad Rakasun Kanu Yarkusuna في بي دايرة ويوجد وكان يوجد موسيقي كان يعزف على الطبل هكذا أيضا في كردستان أو في أم في سوريا. بالطبع في كردستان الأكراد بصفة خاصة الأكراد هم في أي مناسبة يحتفلون بالعزف والرقص والأغاني في كل المناسبات حتى في المظاهرات حتى في الأفراح حتى في الأحزان يحتفلون بالموسيقى. Sì, è sempre quello lo schema. Sì, quindi sono balli in cerchio. Yujad raqs bidaira. Bidaira. Ok. Dice di sì. Sì, è bene. No, è interessante, insomma, vedere, insomma, come ci sono queste danze, vedere magari, insomma, perché per dire in Grecia ci sono sì le danze a cerchio, ma ce ne sono anche altre in cui ci sono magari più, o tipo nei Balcani, delle parti in cui ci sono dei personaggi che fanno le parti quasi solistiche, no? Ci sono dei momenti, oppure a coppia, trio, insomma, quindi sì. Ogni cultura esprime, insomma, il proprio senso del movimento nei modi più differenti, insomma. Sì. Magari alcune culture, per esempio, invece preferiscono questo discorso collettivo in cui il cerchio ha una grande importanza. Vladimiro Kala innahu ra'a fi Yunan wa fi bilad Balkani ashkas bimufradihim yarkasuna la bidaira e huwa kala yujad ikhtilaf baina thaqafat. بالطبع أكيد نحن الأكراد عندما الرقصات لدينا هي رقصات جماعية دائما رقصات جماعية نحتف على شكل دائري أو على شكل Sì, dice che invece loro sono sempre in gruppo. Sì, a sempre comunque in cerca. Sì. Sì. Maschi e femmine. Sì, Yujad Vakar wa Unta. Nisa wa Rijal. Taba, nam, mukhtalat baina nisa wa Rijal. Sì, sì, sì, insieme. Bene. Next time, next tune. Valentina, sempre tu presenti. Il prossimo brano si intitola Tuguli. Diciamo parla di una storia d'amore quasi impossibile, molto simile a quella che da noi è la storia di Romeo e Giulietta, quindi una storia d'amore fra due amanti che non viene rispettata dalle rispettive famiglie, insomma. Sì, accorda, adesso Nasser accorderà il suo... Vai, Nasser, you can tune. E io intanto che Nasser accorda colgo insomma l'occasione per ricordare per chi non lo sapesse che insomma il sas è un po' appunto uno strumento, un liuto a manico lungo con doppie corde ed è interessante perché noi siamo abituati alla chitarra che ha i tasti fissi di metallo, invece molti di questi strumenti sono dei tasti mobili o all'origine erano così e soprattutto di solito sono fatti con dei legacci di nylon doppi intrecciati, così per esempio anche il Bulgari cretese è fatto in questo modo, ma anche molti liuti del Mediterraneo, appunto. Ma Pitagora cosa direbbe? Pitagora potrebbe, Pitagora ci sta dentro questo fatto qua, ma fino a un certo punto, più che altro non ci sta il temperamento qua il del signore che ha fatto il clavicembalo per Bach dal 1750 in avanti. Comunque è un discorso complesso perché nel 1932 c'è stato un congresso al Cairo in cui hanno cercato di capire bene come sistematizzare la musica araba. C'è stato un grande dibattito tra chi voleva appunto conservare il repertorio più tradizionale, addirittura mantenendo solo gli strumenti della tradizione araba, e altri che invece volevano inserire gli strumenti ad arco, insomma. È una lunga storia, addirittura qualcuno si è inventato degli strumenti tipo a tastiera con il temperamento appunto della per suonare la musica araba, quindi con le distanze cambiate, insomma, con i tre quarti di tono, ecco. Ma anche lì ci sono state delle discussioni su cosa adottare. Infatti poi hanno fatto un altro congresso nel 1969 al Cairo. Adesso il prossimo non so quando è, comunque. Un po' come le internazionali. Sì, però non ci sono state spaccature drammatiche. Rispetto al violino, per esempio, i Magrand hanno deciso decisamente di inserirlo senza farsi troppi problemi perché gli piaceva troppo. Mentre Nasser accorda lo strumento, posso fare un'osservazione? Certo. Diciamo che per Nasser, come per tutti i curdi che suonano il saz, suonare appunto questo strumento rappresenta, rappresenta proprio una volontà di esprimere la propria identità culturale. Perché durante la dittatura che c'è stata, veniva proprio vietato ai curdi di suonare saz, di parlare la propria lingua e di... Chiaro. Sì. Di esprimere la propria cultura, insomma. Alla faccia delle pentatoniche. Beh, comunque ricordo ai nostri ascoltatori che sono le 21:59 minuti primi, se siamo sempre in diretta, beh, l'avrete capito, questa è Radio Città del Capo, è del 30 maggio del 2018 Esatto, vi ricordiamo anche che potete ascoltare sulle frequenze di 94.7, 96.250 se siete in Bologna provincia, e se invece siete fuori Bologna, ma anche molto fuori Bologna, cioè anche dall'altra parte dell'oceano, dall'altra parte del mondo, potete sempre, avendo un collegamento internet, un computer o anche un telefono, andare sul sito di Radio Città del Capo e ascoltare in streaming. Se poi non, mercoledì sera siete al cinema o qualcosa di questo tipo, potete sempre ascoltare il podcast, che è abbastanza aggiornato e per adesso non è ancora sul sito della radio perché ci sono tempi tecnici per nostri, per cui però lo potete trovare sulla piattaforma Archive come pagina EtnoChic. Ci sono quasi tutte le puntate dall'inizio di novembre a oggi. Dai, che forse nonostante tutto questo lunghissimo liuto è riuscito a finire accordato. Sì, anche perché il problema è accordare due corde che sono all'unisono. Quindi se non suonano perfettamente assieme. Hai detto bene, liuto. Esatto. Tanto alla fine liuto è low hood. Sì. Trasportato in Veneto, in veneziano. No, la oud sarebbe anche il nome catalano del liuto. Vabbè, dai, veneziano, catalano, siamo lì. Sì, sì. I nomi sono sempre quelli. Beh, intanto che siamo così, facciamo qualche domanda anche agli altri ospiti che li vedo molto rilassati. E cosa vi ha portato a, insomma, a suonare questo tipo di musica? Siete tutti musicisti e insomma, siete questa sera fate un po' il gruppo a Nasser, però tutti voi so che suonate, quindi mi piacerebbe sentire da Valentina, Adele e da Camilla, insomma, magari qualcosa. Allora, il mio incontro con Nasser è avvenuto in un'associazione che si chiama Cerchio di Via Libia, vicino a Via Libia appunto, che ha luogo sotto un ponte. E qui vengono accolte tutte quelle persone, non tutte quelle persone, diciamo, viene data la possibilità alle persone in asilo politico e ai migranti di integrarsi in qualche modo. Attraverso la musica, attraverso e il la teatro, musica, giusto? Attraverso il teatro, attraverso altre attività culturali. E ci siamo conosciuti perché facevamo parte di un'orchestra, di un ensemble multiculturale, e lui suonato, io ho cantato per un periodo lì. Poi adesso stiamo facendo appunto il nostro progetto musicale insieme, e diciamo che essendo io poi di origine greca anche, ci siamo avvicinati spontaneamente insieme perché perché risoniamo sulle stesse corde. Avete, diciamo, delle radici musicali. Abbiamo delle anche radici molto musicali vicine. In comune, abbiamo anche una storia familiare simile. Quindi ci sono tante cose in comune. Adele? Buonasera a tutte. Ah. Allora, grazie per questa sera, grazie Claudia, grazie Vladimiro, grazie a tutti. Allora, io sono all'incontro del Nasser, questa è la prima volta. Scusami, io non parlo bene italiano, non c'è no, ma tanto è perfetto, tempo che sono chiaro. Qua in Italia. Io vengo, mi fa piacere che conosce Nasser con la sua musica curda, che io lo conosco bene. Io sono percussionista professionale, insegno percussioni orientali e tunisino. Allora, stasera io penso che facciamo qualcosa insieme per, non so... E Adel, tu di solito che tipo suoni proprio la musica dell'orchestra arabo-andaluse come repertorio? Allora sì, io sono partito da un gruppo di musica tradizionale, musica classica tunisina, dell'anno 1700-1800, sono partito da un gruppo a Parigi, già questo gruppo da 6 anni fa. Allora, anche io sono emozionato per questa musica. Io ho partito da questa musica del mio padre, ha preso questa musica del mio padre, dopo c'è anche le fratelle, sono tutti musicisti. Io sono partito da una famiglia musicale. Ma tutti percussionisti o sono altri strumenti? No, no, no. Allora, io sono percussionista e come si chiama? E cant. Sì. Io me sono innamorato della musica classica, punto. Ma questa non mi prendere con questo modo di musica. Sono aperto per altre musica orientali, certo. Anche kurde, sentito tanti musicisti kurde, mi piace tanti kurde. C'è anche la musica del sud Italia, come Sicilia e certo, sono di musica mediterranea. Sì, esatto. Allora io sono aperto di tutti tipi di musica, veramente. Allora di questa idea, di questa lungo tempo di musica, era entrato con una gruppa a Parigi che se è possibile di salutare il direttore, che ha fatto un lavoro stupido, un lavoro troppo duro, che si chiama signor Ahmed Ridabes. Mm-hmm. Una persona dona tutti per questa musica. E questo era il vostro direttore di questo gruppo? Sì, direttore di questo gruppo. Che questo gruppo sono questo direttore, come siamo insieme a due persone da 6 anni fa, ma adesso questo gruppo c'è 45 persone. 45 persone adesso, sì, questo gruppo, 20 musicisti e 25 coriste. E voilà. Camilla, non vuoi dire qualcosa? Sì, no, brevemente, sono qui per una coincidenza, diciamo così, perché Valentina è, diciamo, una mia allieva di canto da pochissimo tempo e così è venuta l'ultima volta chiedendomi se poteva venire col suo fidanzato, e così si è detto quello che non era stato detto. E io ho detto sì, va bene, per provare insieme appunto una canzone. E quando ho visto Nasser mi sono accorta, cioè ci siamo subito riconosciuti, perché ci eravamo incontrati sul palco del 25 aprile per un'occasione di quando il coro dei bambini canta e al Pratello, coro resistente al Pratello, e quindi insomma è stato bello perché così avevamo già suonato insieme, perché io tra l'altro che questo strumento lo suono pochissimo, questo DAF, però lo suono per esempio sempre il 25 aprile per accompagnare un canto curdo, e ormai di tradizione c'era lui, e quindi ci siamo incontrati lì. E oggi Valentina mi ha chiesto se volevo venire in radio a suonare con loro, e io ho detto certo. E adesso suonerete un altro brano assieme a questo punto, esatto. Al momento, che è? Chi lo vuole presentare? Lo ripresentiamo, è Tubuli, è il brano appunto sì, con la sì. Storia similare a Romeo e Giulietta. Quindi è una specie di ballata narrativa, sì, insomma. Esatto. È un brano antico o un brano moderno? È un brano antico, è una leggenda molto antica. Amri ma itala Grazie di questa musica. E Nasser, ti chiedevo un'altra cosa: tu il sas non l'hai lasciato a casa, te lo sei portato dietro, giusto? Questo sas ha fatto un lungo viaggio. Ja, Nasser, anta safara ma sas. Sasu anta safara mubasharatan min Suria ila Italia. Nam. Nam. كنت حملت معي الساز. كنت في عفرين. دخلت إلى تركيا. ومن تركيا أتيت إلى مصر ومعي الساز. دخلت إلى ليبيا. ومن ثم عبر البحر حملت معي الساز وأتيت إلى إيطاليا. Dice che sì, con il suo sas ha percorso il confine fra la Siria e la Turchia, poi è arrivato in Egitto, in Libia e poi finalmente in Italia hanno toccato terra insieme. Quindi sarà stato insomma difficile, insomma. Comunque giustamente come musicista te lo sei voluto portare assolutamente con te, perché era proprio anche il tuo legame, no? con la tua terra d'origine, insomma. Vladimiro Kala Annaka Aratta An Tajlab Al-Saz Mak Li Annahu wasila wasita bi ard asli ard asli ard asli min Kurdistan بالطبع نعم بالطبع sì dice sì È un'altra cosa che ti volevo chiedere, Nasser, poi sei arrivato qua e a quanto pare insomma Com'è stato il tuo inserimento musicale qui a Bologna, quando finalmente sei arrivato a Bologna, che poi non molto tempo fa? Indama wasalta ila Bologna, aina. La sua esperienza musicale, cioè lui è arrivato qui e sì, come vediamo anche stasera, insomma, la conosce. Kaifa ta rafta al musikin al acharin fi Bologna. طبعا انا عندما وصلت الى بولونيا تعرفت الى مكان في فيا ليبيا بونتا حيث هناك توجد كثير من الناس يلعبون الموسيقى يشاركون في الحفلات مكان نعزف فيه يساعدون الناس كثيرا شكر لماما إيتا هي اللي أعطتني الفرصة لأتعرف على الموسيقيين وأوصل لهذا. Sì, Nasir ha ripetuto quello che ha detto Valentina, il suo primo incontro con la musica a Bologna è stato al ponte, in Via Libia, sotto il ponte di Via Libia, e lui ci tiene a ringraziare mamma Eta, che è colei che gestisce la struttura. E poi dice, sì, aggiunge... E anche tutti i musicisti che... Ci sono molti musicisti che frequentano, insomma... L'orchestra è un'orchestra abbastanza frequentata, meno perso. Al Yujad Idatul Musikin fi Ponte Yanasir. No, ad Suad. Ma kam kam musikin takriban? Yujad takriban hayso hunaka yuqimuna al dawrat ta'limiyya majanan في البونتا ويوجد موسيقيين بين 10 أشخاص عازفين الكمان وعازفين الفلوت والتربوكا والجيتار. Sì, ha parlato degli strumenti che utilizzano i musicisti al ponte, ha parlato di violino, ha parlato di tarbuca, scusa, io sono ignorante. Sì, sì, tarbuca, quella che suona Adel. E ha parlato di chitarra. E poi non mi ricordo, ha detto anche un altro, non me lo ricordo l'altro che ha nominato. E dai, è il momento di another song. Sempre Valentina, lo introduci. Beh, la prossima è un classico, Lama Bada. Che però non è un brano curto, giusto? No, è un brano arabo. Perché della tradizione musicale. Della tradizione musicale araba, perché ovviamente è una serra. Parla anche arabo, essendo siriano comunque, e parla sempre della fascinazione per la propria amata, che viene vista come irraggiungibile e bellissima. Thank you. questa era l'Amma Bada, la tradizione musicale araba. E sono le 22:21, quasi 22:22. E prima di salutarci magari con un ultimo pezzo, volevo chiedervi se a tutti voi se volevate dire qualcosa, insomma, in finale di trasmissione. E io vi ringrazio ancora per la vostra presenza qui, per il vostro, per la vostra musica, insomma, per le vostre parole, e in particolare anche Luca per la sua tradizione. Posso dire una cosa? Sì. No, mi scuso con Nasir, con gli ascoltatori, per il mio arabo bolognese. È stato un po' stentato, però sono stato felicissimo di essere qua, veramente. Salutiamo, spero. Ti ringraziamo ancora. Grazie, Luca. A voi. Salutiamo anche Azul che ci ha raggiunto, Claudia Carini che è sempre un po' timida, però insomma. Anche perché senza Luca, auguri, perché no, va bene anche l'arabo bolognese, ripeto che è bolognese, o il miliano bolognese. Bene, niente, vi salutiamo, quindi l'ultimo pezzo qual è? Presenta Nasser, il prossimo è Saluni Ahnas di Fairuz. Can you speak about, can you present this lyric? You can. Ok, è un brano di cantato da Fairuz, ma è un brano tradizionale, un brano che è scritto apposta per lei, per la cantante libanese, ricordiamo Fairuz. Salutiamo ancora tutti, salutiamo Nasser, salutiamo Adele, grazie, salutiamo Valentina, grazie a tutti. Camilla, ciao, Luca, tutti. Azul, vabbè, insomma, e soprattutto grazie. Salutiamo grazie. Buona serata a Claudia tutti. E salutiamo tutti voi che siete a casa, vi diamo la buonanotte. Grazie. E ci sentiamo mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo, e mercoledì prossimo avremo ospite, possiamo già fare un'anteprima, avremo Khalifa Kone ospite in studio con la sua musica dal Mali. Grazie e buonanotte. Grazie, ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Grazie.